Sento un po' Joan, te se ricorde del 48, bei tempi de Buriana. Veniva in giù dalla rocca de Bergen e tu s'han bracciato tutti insieme cantavano bandiera rossa giù che si ricorda. Miseri niente, votane calze tu, e due spiente fam per vedere. E mio vis, Juan, e mio vis, in dieci di tusan, bracciasi insieme. La speranza più se bella, più se vera, bandiera rossa Juan, te se ricorde. E qui mi ho visto dopo tre dì in Schneger de rabbia e de dolore. La vinta il pret con ti so beghì, la vinta il pret con ti so bal e io rassio. Ma in diesh di Tusan era la guerra bandiera rossa Juan, che si ricorda. Ma in dieci di Tusan era la guerra bandiera rossa Juan, che si ricorda. Te se ricordi.